Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. Puntata numero 86 di Picchi di Frequenza, che apre la stagione 2018. Avremo con noi Luca Cariboni, che ci racconta la nuova avventura della famiglia Cariboni e soci al Rifugio Locatelli, la prima recensione dell'anno a cura di Martino Iniziato, un sacco di notizie e qualche segnalazione per aprire bene la stagione di montagna. Questa è Picchi di Frequenza. Bentornato a tutte e tutti anche per questa stagione 2018. Come sapete, il blocco di apertura di Picchi di Frequenza è legato alle news della settimana: fatti, approfondimenti, curiosità, tutto ciò che riguarda la montagna. Cominciamo con montagna.tv, con un editoriale dello scorso 28 dicembre che dice: è tempo di aggiornare gli 8.848 metri dell'Everest. Perché? Perché il governo nepalese ha stanziato 20 milioni di rupie per fare nuove misurazioni. Un esperimento che oramai, come dire, si in maniera ricorrente prosegue da ormai 170 anni, quello di cercare di capire quanto sia alta esattamente la montagna più alta del mondo. WWF, per 16 animali, questo potrebbe essere l'ultimo Natale, evidentemente notizia di qualche settimana fa. Vacchita e leopardo dell'Amur, due specie che rischiano di non vedere il Natale 2018, per il numero esiguo a cui sono ridotte le popolazioni. Non più di qualche mese fa era uscita la notizia che il panda, storico simbolo del WWF, sembrerebbe non essere più a rischio come un tempo, mentre sull'orlo dell'estinzione sono il lupo rosso. Evidentemente vado a segnalarvi in particolare quelli che abitano in ambiente montano: l'orso marsicano, l'abete dei nebrodi, il pangolino cinese, il leopardo dell'Amur, insomma una ventina di specie che sono sull'orlo del collasso, tra cui anche lo stesso gipeto. Corriere delle Alpi, la marmolada ora è accessibile a tutti. Vascellari presenta i nuovi ascensori del cinquantennale dell'impianto. L'obiettivo è quello di puntare tutto sui mondiali 2021. Non è una delle notizie che ci piacciono, ma è giusto sapere come a Rocca Pietore Cortina, la bella addormentata, si sta svegliando. Sono molto fiducioso per i mondiali 2021. Mario Vascellari, ingegnere, classe 1956, osserva la funivia della marmolada fermata ieri inopinatamente dal vento. Uno scherzo del meteo che gli ha fatto annullare l'inaugurazione ufficiale della grande novità con cui avevo dovuto festeggiare i 50 anni dell'impianto. Due nuovi ascensori, capienza di 42 persone ciascuno, con cui è possibile trasferirsi dalla funivia alla pista sul ghiacciaio. E l'articolo, come dire, chiude simpaticamente: senza alcuna fatica. Questa è un po' la cifra stilistica di un inverno che, dopo le due annate più calde del secolo, ha portato con sé un po' di neve, il che non è necessariamente sinonimo di fresco, e quindi ha ringalluzzito anche questo tipo di aspirazione. Ci spostiamo su dislivelli.eu, i numeri dell'osservatorio. L'iniziativa è partita dall'associazione Trip Montagna, ricorderete che abbiamo avuto occasione di sentirli un annetto fa forse. Coordinamento dei professionisti e imprenditori della montagna specializzati nell'offerta di turismo dolce, fatta di attività sportive, culturali e sociali a basso impatto ambientale. Una forma di turismo che trova spazio, bla bla bla, insomma l'articolo prosegue. Trip Montagna ha deciso di istituire, e qui arriva il nodo, un osservatorio permanente che vuole monitorare anno per anno l'andamento del settore. La raccolta dei dati che ha portato alla realizzazione della prima indagine sul turismo responsabile, parliamo evidentemente delle montagne piemontesi, è resa possibile grazie ad oltre 600 attori territoriali, tra cui le guide alpine, la IGAE, l'associazione dei gestori rifugi alpini ed evidentemente della rete Sweet Mountains, che è partnership del progetto. Il tutto lo trovate su dislivelli.eu, così come la notizia dell'uscita del 83esimo mensile dell'associazione, dicembre 2017, gennaio 2018, in occasione dei 10 anni appunto di Slivelli. Insomma, ci sono anche qui sul News Magazine un po' di approfondimenti per chi di voi fosse un fan, diciamo, del lavoro condotto da questa associazione. Un canale non convenzionale per questo brano. Oggi ci concediamo un pochino di tempo perché nel corso delle settimane vacanziere abbiamo accumulato parecchie cose interessanti. Muschi, 2 punti, non raccogliamoli. Un pezzo di Angela Borghesi per 00. Gli inglesi hanno fatto di necessità virtù, li conoscono e catalogano, e con l'umido velluto dei muschi creano beautiful garden corners di grande suggestione. I giapponesi, con 120 specie diverse, hanno reso l'antico giardino di Saihoi a Kyoto il tempio dei muschi. E è una sorta di dichiarazione d'amore per i muschi, ma soprattutto un invito a non raccoglierli, quello di questo approfondimento che appunto trovate su doppio zero, con tutta una serie di curiosità sul mondo vivo dei muschi e sulla necessità di non portarli via dal loro ambiente elettivo. Un'altra segnalazione su cui mi mantengo rapido perché l'abbiamo già fatta sulla nostra pagina Facebook: Valsusa, un'altra tragica frontiera dell'Europa dei muri. Su questo torneremo nell'angolo delle segnalazioni, degli appuntamenti in chiusura di puntata, perché il prossimo 14 gennaio si terrà un'iniziativa a Clavière, che era prevista per il 7 ma è stata rinviata, e diciamo che l'approfondimento di Dinamo, così come fece Radio Popolare lo scorso dicembre, forse il più interessante, diciamo così, su quello che sta accadendo in conseguenza della chiusura delle tante rotte migranti. E quindi nella fessura di Bardonecchia, l'apertura di un nuovo canale attraverso cui i migranti cercano di lasciare lo stivale in direzione della Francia, dell'Inghilterra, appunto attraverso i passi alpini. Questo, specialmente durante la stagione invernale, porta una serie di problemi, di difficoltà, di rischi. In particolare Luigi Dalif ha firmato una bella ricerca fotografica e video su questo argomento, e appunto Dinamo Press ne ha fatto un articolo intervista di assoluto interesse. The ice here is just more difficult than most waterfall as I climb. Quello che sentite in sottofondo non è un brano musicale, ma è come dire, il commento audio a un fatto strano che è successo quest'inverno. Il gelo trasforma in ghiaccio le cascate del Niagara. Will Guts ha arrampicato appunto la cascata di ghiaccio del Niagara, la parte di cascata che si è lungo l'ampio fronte ghiacciata. È stata la prima autorizzata dopo il divieto del 2015, perché è un fatto, come dire, che evidentemente si ripete, ma che quest'anno ha assunto dimensioni particolari. Mountain Blog parla di meraviglioso paradiso invernale in parte ghiacciato, ma se le temperature dovessero rimanere a lungo al di sotto dello zero, non è escluso che le cascate potrebbero fermare il loro corso e trasformarsi quest'anno tutto in ghiaccio, così come avvenne nel 2014. Un vortice polare ha portato le temperature artiche in alcune parti del Canada, inclusa la capitale Ottawa e altre grandi città, fra cui Toronto e Montreal, insomma, laddove non se ne riconosceva traccia negli anni. Con questo chiudiamo questa parte della rubrica, siamo andati anche un bel po' lunghi e entriamo nel vivo della puntata con l'incontro con Luca e Mauro Cariboni. Ci siamo lasciati lo scorso 22 ottobre salutando il Rifugio Rosalba, dopo oltre 20 anni di attività. Mauro Cariboni e suo figlio Luca, che oggi abbiamo al telefono, ci hanno lasciato però non con malinconia, ma con la promessa di riaprire a presto, all'apertura del 2018, sempre ai Piani Resinelli, questa volta al Rifugio Locatelli della SEL. E quel giorno ci siamo promessi, sentiamoci subito dopo. Oggi siamo andati a trovarli, a pranzo erano parecchio impegnati, quindi abbiamo deciso di farci una telefonata tardo pomeridiana. Quindi chiedo a te, Luca, che sostanzialmente sei praticamente al tuo primo giorno lì al rifugio, dove siete, cosa fate, come sta andando, insomma, in due minuti di raccontarci un pochino come nasce questa nuova esperienza. Allora, oggi è andato veramente bene, ma comunque, essendo aperti dal 1 gennaio, anche noi non ci aspettavamo di lavorare così tanto, perché le nostre 80 persone più o meno le abbiamo fatte tutti i giorni. Poi dopo c'è un sacco di entusiasmo tra io, mio papà e il Fabio, siamo veramente contenti, e anche per tanti amici che ci sono venuti a trovare, e speriamo che possa andare avanti così, perché è veramente bello. Senti, raccontaci due cose sul Rifugio Locatelli. Quando sarete aperti, quanti posti ha, come ci si arriva? Sono cose note ad alcuni, ma non a tutti i nostri ascoltatori, quindi ti chiedo di darci giusto due informazioni per venire a trovare la famiglia Cariboni e il suo nuovo socio d'avventure. Allora, al Rifugio Locatelli ci si arriva in macchina, quindi anche una cosa nuova per noi, come siamo stati abituati sempre a gestire un rifugio di montagna. È proprio appena si arriva sui Resinelli, dove c'è il grattacielo, è qua al rifugio. Adesso durante le feste siamo stati aperti tutti i giorni, poi dopo probabilmente dobbiamo anche noi un pochino capire i giorni d'apertura, così sabato e domenica saremo sempre aperti, e anche durante l'estate aperti tutti i giorni, mentre negli altri periodi e dobbiamo anche noi un po' capire. Poi, appunto, essendo all'inizio, stiamo anche organizzando biglietti da visita, il sito internet, dove comunque si potranno trovare tutte le informazioni. Senti, il rifugio è super accogliente, visto che, devo dire la verità, oggi abbiamo anche mangiato davvero bene, per quanto riguarda, diciamo così, la ristorazione. Sulle camere, a partire da quando immaginate di riuscire a sistemare, perché ci sono da fare magari qualche lavoretto? Speriamo, sì, le camere non sono neanche ancora norma, e speriamo comunque di riuscire a sistemarle entro l'estate, perché comunque anche vari corsi roccia così che ci sono affezionati a noi per il Rosalba vorrebbero venire qua. Ecco, ti chiedo un'ultima cosa. Ovviamente la storia del Rosalba non è soltanto la storia di un luogo, di una capanna, ma è anche la storia di una comunità di persone, appunto, affezionate al luogo e ai suoi gestori. Quali sono le prime impressioni che un pochino le persone che conoscete vi vengono a salutare, sono passati a farvi visita, vi hanno dato? Ovviamente abbiamo detto il luogo è un luogo diverso, ma da cui ci sono tutta una serie di altre iniziative, insomma, che si possono intraprendere oggi, al di là di chi ha la forza anche in questa stagione di arrivare in vetta in grigna. Siamo stati per esempio al Coltignone, c'era possibilità di slittini e bob per i più piccoli, però un pochino l'atmosfera di chi già vi conosceva o vi ha conosciuto in questi giorni, qual è il feedback anche umano così che vi è arrivato? Allora, è il bello che comunque ci siamo accorti che la gente ha pazienza, nel senso, sono tutti molto collaborativi, appunto per il fatto, sapendo che è poco, che siamo aperti, dobbiamo anche noi prendere un po' la mano, è bello perché appunto la gente è molto collaborativa, non ci stressa e cerca sempre di aiutarci, anche in piccole cose, nel senso, nel prendere il caffè, un esempio, usare la macchinetta del caffè, che io e mio papà non abbiamo mai provato. La gente, se gli diciamo aspetta che dobbiamo capire un po' come funziona, loro ci aiutano da quelle parti qua, quindi anche la gente è molto collaborativa e soprattutto contenta che sia io, mio papà e il Fabio siamo comunque ancora qua nella zona. Va bene, Luca, grazie mille. Oggi è stato un piacere intanto venire a salutarvi, venirvi a trovare. Di quanto si mangia bene al Rifugio Locatelli, già l'ho accennato prima, e rinnoviamo l'invito ai nostri ascoltatori a fare quattro salti su ai Piani Resinelli in tutte le stagioni, weekend durante l'anno, tutta l'estate invece aperti, per conoscere una nuova casa base da cui partire verso il gruppo delle Grigne. Esatto. Ciao, grazie Luca. Ciao, ciao, grazie a voi. Go passa strisce, lascio bianca a vento, che la vega, rete vetra, rete lenta, vecchio team. Eri ta mamma che tornava in prezzo, ma sapeva che mok, con fritto fiera, se c'era ne rientra. Gocce rosse, mise vasala, senza pasta, amore e fava, se creano che macchina, regno e frase. Su fumo saglia poca volta, i sbagli portano, ma na nom, l'illusione, se senti forte. Già colpì, chi se fe sordo, un coppo di aletto, mi figli e famiglia, quadra una vita, rintana fila e firma, che la vega, anil, che trasse una stienda, femmina che pensano che fede è una croce diamante. Da fida, si riesce una ambressa che t'amano. Allora ci piace, si sente la femmina in alto. Cari champagne, cancella scorrono in fama. Fava spesso un iceberg, qualcuno era guarda ne scara. E se fanno in gara, a chi va lo prezzo più caro. Ma non inganna, manca l'aria. A ieri tu scemo, con l'aiva netta una sotto. Ari in due scuro, ma non mi faccio che guardi. Perciò ci manno un gol. Mo' firra cavara, rifratemi, già vola. Già vola. Sì. Ma lo stanno sti cose, da lui che l'artista italiano andò. Gli è pisce in capa a singoscire. L'acqua scende, musicante scema. Ma non un uomo, ma roba nostra. Su zoccola per discografica, mi preoccupo. Io non è metafora, è caverità, non mi confondo. La te fanno che la cane un song. Piccion do, parli salumeri, palestra, barra aperta. Notturiesta e mangi, che marca vieste e tiene compagni. E mio ognuno è coccruno, mie ziorno. Ma rende più aiuto, accatto latte e casa sono negozi. Voglio e bisogno, che la gabbè cose. Oggi ho risultato, votato all'infanzia, Francia s'atteggia, ma là non esiste sistema che paga stipendi e peggio, non stanno insieme a chi felice. Telefono, ordine morto, parta una barca all'aeroporto, targa pazzotto e scorto corrotto. Segnalazioni della settimana, che poi sono due, nonostante il periodo in cui, così, di ripartenza di quelle che sono le attività associative. La prima, e forse più importante, dal titolo Brisé le frontières, Marché pour briser les frontières, camminata contro le frontiere per muoversi liberamente da Claviera a Montgenèvre, appuntamento alle ore 11 al parcheggio di via nazionale, appunto, di Claviera. Doveva inizialmente essere il 7 gennaio, è stata posticipata di una settimana, visto che le previsioni del tempo sono ancora un pochino da capire. Vi invito a dare uno sguardo, appunto, alla pagina Facebook di Brisé le frontières, a partecipare, ma soprattutto ad abbigliarvi adeguatamente, come segnalato in occasione dell'evento, che ha anche tra i suoi, così, sottotitoli anche l'indifferenza e complicità. Le frontiere non esistono in natura, sono un sistema di controllo e non proteggono le persone, le mettono anzi una contro l'altra, non favoriscono l'incontro ma generano rancore. Le frontiere non dividono un mondo da un altro, c'è un solo mondo e le frontiere lo stanno lacerando. Per informazioni 0039 348 5542 295. La seconda e più vicina invece segnalazione è sempre per purtroppo per la stessa data, ma già fissata da tempo, è sempre per domenica 14 gennaio, dal titolo Programma Ape 2018 e Cine Ape con Jumbo Wild in collaborazione con Patagonia. Appuntamento al piano terra alle ore 20:45, anzitutto per la presentazione del palinsesto, che per la prima occasione sarà semestrale e non soltanto stagionale, delle attività dell'Ape Tutti, delle attività, insomma, escursionistiche, alpinistiche e invece quelle sociali dell'Associazione Proletario Escursionisti. Alle 21, grazie alla disponibilità di Patagonia, proiezione di Jumbo Wild, un film per proteggere la valle dei Ktunaxa e dei Grizzly, il documentario che racconta la lotta di una comunità canadese contro lo sviluppo edilizio che minaccia le loro montagne. Sulla pagina Facebook dell'Ape Milano trovate anche il trailer. E con questo andiamo verso invece una recensione, perché ritorna, dopo le settimane di collaborazione con Monti in Città, la nostra sguardo di approfondimento su quello che ci offre l'editoria di montagna. La parola a Martino Iniziato. Well, I'm an alley cat, some say it. looking like a peace mode, coming on a homicide. You talking shit, try to take me for a ride. I'm not a bad guy, but I'm the fucking Phil. Finger on the trigger with my hands up on a steel. Letting out a bullet, is this going booyah? You're stuck in my hood, so what you gonna do now? Being the hunted one is no fun. Here I come, son, yo, I think you better run. Better run more and move a little faster. Second of thought, and I'm coming to blast you with my sawed-off shotgun. Hand on the palm, left hand on the 40. Whooping on a blunt, fuck my shotgun. The niggas didn't jump. La la la la la la. Secondo i dati presentati lo scorso ottobre alla fiera Ski Pass Panorama Turismo di Modena, gli italiani che praticano discipline sportive sulla neve hanno raggiunto quota 4 milioni. Di questi, la maggior parte si dedica allo sci di discesa, 2 milioni e 260 mila, e allo snowboard, 515 mila, mentre 300 mila persone si occupano di fondismo. Sembrerebbe, leggendo queste statistiche, che andare in montagna d'inverno fuori dai caroselli e dalle piste battute sia cosa impossibile. Anche gli sci alpinisti, per accedere alle riserve di neve polverosa sempre più in quota, devono pagare ormai. Da quest'anno Monterosa Ski ha messo in vendita un apposito giornaliero di 10 euro, 49 lo stagionale, per trasportare gli sci alpinisti nella parte alta del comprensorio. Quello che l'Osservatorio del Turismo Montano sembra ignorare è che esistono in Italia località montane che hanno costruito il proprio successo proprio sull'assenza di impianti di risalita ed elicotteri. A questo mercato alternativo della montagna invernale è dedicato anche l'ultimo numero della rivista online Dislivelli. Per esempio, in Valle Maira, già da tempo i cosiddetti Winter Wanderer arrivano da tutta Europa per percorrere gli antichi sentieri nella neve del silenzio. Ostana, in Val Varaita, è ormai conosciuta come il paradiso delle ciaspole ed inverno le locande sono piene anche nei giorni feriali. Nell'assolato vallone di Rorè la neve magari non c'è, ma d'inverno è bello passeggiare sui viol, i cosiddetti viol, i sentieri che portano sul crinale della Valle del Po. In Alta Val Chisone i sentieri del Parco Orsiera offrono una valida alternativa alla montagna Luna Park della Valle di Susa. Balme, in valle di Ala, in provincia di Torino, è il primo comune in Italia ad aver deliberato un netto no all'eliski, guadagnandosi una più assidua frequentazione da parte degli appassionati della natura selvaggia, escursionisti, sci alpinisti e ciaspolatori, a cui ricordiamo sempre però di percorrere i sentieri e soprattutto i sentieri non battuti nella massima attenzione e sicurezza per evitare le valanghe che sempre più frequenti si scatenano alla luce anche dei veloci e repentini cambi di temperatura a cui ci stanno abituando i nostri inverni. Poco lontano dall'Alpe d'Evero si discute animatamente di nuovi impianti e del futuribile collegamento con il rinnovato carosello di San Domenico di Varzo in provincia di Verbania, ai confini dell'area protetta Veglia d'Evero. Fa discutere anche il caso di Passorolle, dove gli amministratori pubblici del Primiero si sono opposti al progetto per creare un grande parco outdoor, a meno di smantellare i vecchi impianti di sci che hanno accumulato quasi un milione di debiti. Si è deciso infine di salvare gli impianti e la società pubblica di energia idroelettrica si accollerà parte dei debiti. Smantellare gli impianti di sci è condizione non trattabile per la realizzazione del parco outdoor, ha detto la presidente degli impiantisti Valeria Ghezzi. Lo sci è radicato nelle nostre Dolomiti e per ancora molto tempo sarà il focus del turismo invernale. Una posizione che chiaramente richiama al valore commerciale del turismo invernale, ma che magari tiene poco conto di quelle che sono invece le direttive di sviluppo più sostenibile che potrebbe prendere una fetta del nostro turismo. Alla fiera di Modena sul turismo invernale è stata infine presentata la Carta della Montagna Bianca Italiana, una sorta di manifesto per il rilancio in chiave green economy dello sci di pista, una filiera che rappresenta l'11,2% del turismo italiano e genera un fatturato di 10 milioni e 515 mila euro l'anno, con 390 mila e 675 addetti, fra cui oltre 10 mila maestri di sci. Fra gli obiettivi, una viabilità basata sul trasporto pubblico, il corretto utilizzo delle risorse ecologiche, la destagionalizzazione del turismo ed il miglioramento del sistema di accoglienza. E soprattutto incrementare il numero di coloro che pagano il prezzo dello ski pass, puntando anche su una fruizione legata alle tematiche del benessere, della lentezza, della bellezza e di un sano stile di vita. un approccio che sicuramente guarda ad un turismo più sostenibile, ma che non affronta in maniera radicale e più decisa il tema dell'infrastrutturazione della montagna e degli abusi che spesso vengono procurati presso boschi, foreste e vallate, di cui si potrebbe anche fare a meno. Like a pit bull, get to the point. Your fucking car to get pulled now. I'm headed up the river with a boat, ain't no paddle. And I'm handing out beat downs. I'm headed up the river with a boat, ain't no paddle. And I'm handing out beat downs. Put me in chains, try to beat my brains. I can get out, but the grudge remains. When I see your punk ass, I'm gonna get ya. So do ya. Shotgun goes booyah. Anche questa puntata, ed era la numero 86, in compagnia di Picchi di Frequenza, volge al termine. Come di consueto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, spero vi sia piaciuta. Vi invito a condividere con noi idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, proposte di collaborazione, tutto quello che vi viene in mente, anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, sul social network blu alla pagina Picchi di Frequenza o quello azzurro all'account @abuzzo3. Per tutto il resto c'è il nostro archivio, oltre 80 puntate liberamente ascoltabili in streaming, in download, scaricabili all'indirizzo internet amonte.info. Mentre noi ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.